Salve a tutti, io sono Jasmine, questo è Radio Big World e benvenuta ad una nuova puntata di Curiosità Animate, dove vi parlo dei classici Disney. Il classico di cui parleremo oggi è Atlantis, il Regno Perduto, film del 2001 ed è considerato il 41esimo classico Disney. Il film si basa sulla leggenda di Atlantide, ma prende spunto anche dal romanzo 20.000 leghe sottomarine di Jules Verne. La storia, ambientata nel 1914, vede come protagonista Milo, un linguista, che appassionato del mito di Atlantide, si imbatte in un manoscritto vichingo che ne rivela l'ubicazione. I protagonisti, durante questo viaggio, avranno diverse difficoltà perché verranno attaccati svariate volte da degli automi marini che gli impediranno di entrare all'interno della città. Però a un certo punto Milo riesce a incontrare la principessa di Atlantide, Kida, e scopre svariate cose riguardo la città, ovvero che 8.000 anni prima la città stava per essere completamente distrutta, ma è stata salvata da una gemma che si chiama il Cuore di Atlantide. Il capitano Rourke scopre di questo Cuore di Atlantide e decide di rapire Kida e rubare questa gemma per arricchirsi. Ma alla fine Milo e i suoi amici decidono di salvare Atlantide e uccidono il capitano Rourke. Kida diviene la regina di Atlantide e Milo rimarrà a vivere con lei. Il film fu molto dispendioso, infatti per la realizzazione è stata anche utilizzata e messa a punto una lingua del tutto nuova, una specie di atlantese che i personaggi dovevano parlare. Però non ebbe un grande successo, anzi fu quasi stroncato un po' dalla critica e i costi non furono del tutto coperti. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.